America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da Charlotte, North Carolina, Mario Platero alla Convention Democratica. Ladies and gentlemen, please welcome President Bill Clinton. Avete sentito l'esplosione, avete sentito l'accoglienza che Bill Clinton, grande protagonista della serata di ieri a questa convention, ha avuto dal pubblico, e devo dire la sua performance è stata straordinaria, è riuscito a infiammare la platea, forse al di là delle più ottimistiche aspettative degli organizzatori, soprattutto di Barack Obama, che su lui conta molto per attirare quel voto del centro, quel voto dei bianchi disillusi con Barack, quel voto degli incisi. Sentiamolo. If you want a future of shared prosperity. Ecco, l'avete sentito, inimitabile nel suo linguaggio diretto, confidenziale, con questa sua parlata un po' gigiona, strascicata del sud, cara agli americani bianchi, appunto, che diffidano dell'attuale presidente. E beh, insomma, Bill Clinton ha implorato gli americani di confermare Barack Obama alla Casa Bianca. E quindi in questa parte finale del discorso, che ho preferito farvi ascoltare subito, Bill Clinton, l'ex presidente Bill Clinton, dice: l'America deve votare per Barack Obama se vuole che la fortuna, che il benessere siano comuni e condivisi. Poco prima Bill Clinton aveva addirittura nominato, pensate, Barack Obama per la presidenza americana. Non era mai successo che un ex presidente nominasse il nuovo presidente, e quindi in qualche modo si è fatta una pagina di storia. Sentiamola ancora. Listen to me now. No president, not me, not any of my predecessors, no one could have fully repaired all the damage that he found in just 4 years. Il discorso di Bill Clinton è durato 50 minuti, molto più lungo di un discorso normale, un discorso molto denso, molto tecnico. Ha parlato di Medicare, di Medicaid, di energia, di migrazione, di bilancio, di tasse, di politiche, di occupazione. Ha parlato di numeri, di fatti, dei progressi di Obama, 4,5 milioni di nuovi posti di lavoro. Ha detto, ha citato la ripresa economica che comunque è in corso, e ha ricordato il momento difficilissimo in cui Barack Obama cominciò. When we vote in this election, we'll be deciding what kind of country we want to live in. Votate i repubblicani, dice Bill Clinton, se volete una società in cui ognuno pensa per sé e chi vince prende tutto. Se invece volete un paese in cui la fortuna è condivisa, così come la responsabilità, una società in cui siamo tutti insieme, allora dovete votare per Barack Obama e Joe Biden. Insomma, una chiamata alle armi. Devo dire, mi ha molto colpito, perché io ho seguito Bill Clinton, è un oratore straordinario, e ieri ha dimostrato, ha confermato di essere straordinariamente bravo. I due sono un po' una strada coppia, non potrebbero essere più diversi, aperto, solare, di grande contatto umano. Pensate, ha sempre bisogno di avere amici intorno, se guarda una partita di football magari sta al telefono con un amico per commentare l'andamento della partita, e questo ovviamente è Bill Clinton. Invece freddo, chiuso, solitario, Barack Obama. Clinton proviene dall'anima di centrodestra del Partito Democratico, ha cercato di riformare, senza riuscirci, peraltro partendo dal defunto Democratic Leadership Council, il partito. Obama è dell'area liberal, della sinistra, e ha rafforzato quest'ala sinistra durante il suo mandato, sia dal punto di vista delle alleanze che dal punto di vista della filosofia politica. Il primo, beh, lo sappiamo, Clinton ama le donne; il secondo è fedelissimo a Michelle. Clinton si è lanciato in politica da ragazzino, quando era ancora alle scuole superiori, primo della classe, studiava, borse di studio, a 28 anni era già procuratore e poi subito governatore, mentre invece Obama, insomma, Barry lo sappiamo, fumava, era piuttosto rilassato, si è lanciato in politica solo a 35 anni. Clinton è del sud, dell'Arkansas, della frontiera più avanzata, occidente, delle Hawaii, con radici al nord, a Chicago. 4 anni fa poi erano divisi dalla guerra per la nomination di Hillary, e diciamolo, non si volevano bene, però ci sono anche molte similitudini. Entrambi non hanno mai conosciuto il padre biologico, hanno un rapporto fortissimo di partnership politica con la propria moglie, entrambi sono ambiziosi, entrambi appartengono alla grande, variegata costellazione del Partito Democratico. We are all here to reignite the American dream. Ecco, ieri sera non c'è stato soltanto Bill Clinton, c'è stata anche Nancy Pelosi, la prima donna speaker, la prima donna presidente della Camera negli Stati Uniti. Un discorso molto pacato, il suo, un discorso in cui ha cercato di mobilitare la base per riconquistare alcuni seggi alla Camera. Io so che la Pelosi vorrebbe addirittura riconquistare la maggioranza, questo è impossibile, la Camera resterà repubblicana, dunque Barack Obama, se sarà rieletto, si troverà a governare comunque con una opposizione. Poi c'è stata una passerella di una gran quantità di altri oratori, Bob King, c'è stato un filmato per esempio sull'industria dell'auto, Bob King è il capo della United Automobile Workers, Elizabeth Warren, candidata al Senato in Massachusetts, che ha bacchettato le banche, il sindaco di Los Angeles, Antonio Villaraigosa, rappresentante dei latinoamericani. Ecco, è stato Bill Clinton, perché alla fine, come vedete, di nuovo parliamo di un caleidoscopio molto diverso come quello di ieri, alla fine dicevo è stato Bill Clinton che ha tirato le fila, è stato lui a riunire la platea attorno a Barack, a mandare gli americani, tutti gli americani, vorrei dire, perché vi ripeto il discorso è stato entusiasmante, a dormire di un umore migliore forse di quello che avevano poche ore prima. Ecco, ho qui con me Paolo Valentino del Corriere, voglio chiedergli una reazione a questo discorso. Paolo. Devo dire che Bill Clinton ha fatto veramente il botto, che l'ex presidente fosse amato dalla base democratica, questo era già risaputo, ma un discorso così forte, così convincente, così appassionato a sostegno di Barack Obama, non ce l'aspettavamo, la platea è letteralmente esplosa, questo concetto della responsabilità condivisa, della prosperità condivisa, così mentre Michelle la sera prima ha messo sul piatto l'emozione, la storia, la vicenda personale per ragionare intorno alla necessità di votare appunto per Barack Obama, invece Bill Clinton ha fatto un discorso squisitamente politico, riuscendo e centrando l'obiettivo. Qual è il grande aiuto di Bill Clinton a Barack Obama? Bill Clinton è il dirigente democratico, il leader democratico che è in grado di parlare agli operai bianchi senza per questo mettere in discussione o rendere problematico il rapporto con la comunità degli affari. Ecco, c'è un altro aspetto, in qualche modo in questa convention è piombata l'Italia, perché il sindaco di Firenze, Matteo Renzi, era qui, l'abbiamo visto, io tra l'altro ho passato anche un po' di tempo con lui, con Kerry Kennedy, quando c'erano i discorsi l'altra notte di Michelle Obama, l'abbiamo visto ieri mattina, mi ha colpito perché noi parliamo sempre, parlando d'America, del fatto che questo è un paese bottom up, un paese dove le cose partono dal basso, non partono dall'alto, non è un paese dirigista. Ecco, Paolo, ti ha colpito questa presenza di un giovane, perché poi insomma Renzi è molto giovane qui, e c'è qualcosa, forse come dice Renzi, secondo cui noi siamo indietro, magari di 20 anni, come ha detto? C'è dubbio che la presenza di Renzi qui a Charlotte è un segnale positivo, è il segnale dell'attenzione che una nuova generazione di leader italiani presta all'esperienza americana. Devo dire poi che ovviamente il modello dell'insurgent, del ribelle che vince, che sfida e vince contro l'establishment del partito, ha molte somiglianze con la situazione di Renzi ovviamente. Obama è stato questo nel 2008, ora fatte le dovute proporzioni, è chiaro che quel modello ha molte somiglianze. Comunque sicuramente un bravo Renzi che è venuto qui a Charlotte a recepire e anche a elaborare una grande lezione di democrazia e di appunto democrazia dal basso. Bene, siamo arrivati all'ultimo giorno di questa convention, devo dire un periodo faticosissimo, cominciato la settimana scorsa a Tampa, un back to back, e quello che ho notato è che Barack Obama si è spostato al centro, lo ha fatto ieri cambiando anche la piattaforma in due punti abbastanza centrali, ha fatto inserire Gerusalemme come capitale di Israele, che prima non c'era, ha fatto inserire il nome di Dio nella piattaforma che voleva essere soprattutto laica, quindi il clima sta già cambiando. Barack Obama stasera farà il suo grande discorso, chiuderà, tirerà le fila di questa convention, poi andremo naturalmente ai dibattiti. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera, continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook, ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, Bill Clinton, sappiamo che è stato un grande presidente, sappiamo che è anche un grande sassofonista, grande conoscitore della musica, dunque per la canzone di oggi ci affidiamo a lui e ascoltiamo uno dei suoi brani preferiti, di John Baez, Winds of the Old Days, titolo appropriato visto che abbiamo dato uno sguardo anche al passato. Ladies adrift in a foreign land, singing on issues both humble and grand. A decade flew past her and there on the page she read that the prince had returned to the stage. Hovering near treacherous water, saw her drifting and caught her. Unguarded fantasies flying too far, memories tumbling like sweets from a jar. And take me down to the harbor now, grapes of the summer are low on the bough. Ghosts of my history will follow me there, and the winds of the old days will blow through my head. Charlotte è tutto, Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.